Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. La città involontaria. Una delle cose da vedere a Napoli, dopo le visite regolamentari agli scavi, alla solfatara e, ove ne rimanga tempo, al cratere, è il terzo e quarto granili, nella zona costiera che lega il porto ai primi sobborghi vesuviani. È un edificio della lunghezza di circa 300 metri, largo da 15 a 20, alto molto di più. L'aspetto, per chi lo scorga improvvisamente scendendo da uno dei piccoli tram adibiti soprattutto alle corse operaie, è quello di una collina o una calva montagna, invasa dalle termiti che la percorrono senza alcun rumore né segno che denunci uno scopo particolare. Anticamente le mura erano di un rosso cupo, che ancora emerge qua e là fra vaste macchie di giallo e ditate di un equivoco verde. Ho potuto contare 174 aperture sulla sola facciata, di ampiezza e altezza inaudite per un gusto moderno, e la più parte sbarrate. Poi alcuni terrazzini e sul dietro dell'edificio 8 tubi di fognatura che, sistemati al terzo piano, lasciano scorrere le loro lente acque lungo la silenziosa muraglia. I piani sono 3, più un terraneo, nascosto per metà nel suolo e difeso da un fossato, e comprendono 348 stanze tutte ugualmente alte e grandi, distribuite con una regolarità perfetta a destra e a sinistra di 4 corridoi, uno per piano, la cui misura complessiva è di 1,2 km. Ogni corridoio è illuminato da non oltre 28 lampade, della forza di 5 candele ciascuna. La larghezza di ogni corridoio va da 7 a 8 metri. La parola corridoio vale quindi a designare, più che altro, 4 strade di una qualunque zona cittadina sopraelevate come piani di un autobus e prive affatto di cielo. Soprattutto per il piano terra e 2 piani superiori, la luce del sole è rappresentata da quelle 28 lampade elettriche che qui brillano debolmente sia la notte che il giorno. Sui 2 lati di ciascun corridoio si aprono 86 porte di abitazioni private, 43 a destra, 43 a sinistra, più quella di un gabinetto, contraddistinte da una serie di numeri che vanno da 1 a 348. In ognuno di questi locali sono raccolte da 1 a 5 famiglie, con una media di 3 famiglie per vano. Il numero complessivo degli abitanti della casa è di 3.000 persone, divisi in 570 famiglie, con una media di 6 persone per famiglia. Quando 3, 4, 5 famiglie convivono nello stesso locale, si raggiunge una densità di 25 o 30 abitanti per vano. Enunciati così sommariamente alcuni dati circa la struttura e la popolazione di questo quartiere napoletano, ci si rende conto di non aver espresso quasi nulla. Ogni giorno, in 1.000 competenti uffici di tutte le città e paesi del globo, macchine perfette allineano numeri, somme di statistiche, intese a precisare in quale e quanta misura nasca, cresca, si dissolva la vita economica, politica e morale di ogni singola comunità o nazione. Altri dati, di una profondità quasi astrale, si riferiscono invece alla vita e alla natura degli antichi popoli, alle loro reggiture, trionfi, civiltà e fine, o scavalcando addirittura ogni più caro interesse storico, si rivolgono a considerare la vita o le probabilità di vita dei pianeti che brillano nello spazio. Il terzo e quarto granili, uno dei fenomeni più suggestivi di un mondo come l'Italia meridionale, morto al tempo che avanza, va quindi, più che scoperto in ingenue cifre da questo o quell'oscuro cronista, visitato accuratamente, in tutte le sue deformità e gli assurdi orrori, da gruppi di economisti, di giuristi, di medici. Apposite commissioni potrebbero recarvisi a contare il numero dei vivi e dei morti, e di quelli come di questi esaminare le ragioni che li condussero o li tennero o li portarono via di qui. Perché il terzo e quarto granili non è solo ciò che si può chiamare una temporanea sistemazione di senza tetto, ma piuttosto la dimostrazione, in termini clinici e giuridici, della caduta di una razza. Secondo la più discreta delle deduzioni, solo una compagine umana profondamente malata potrebbe tollerare, come Napoli tollera, senza turbarsi, la putrefazione di un suo membro, che questo, e non altro, è il segno sotto il quale vive e germina l'istituzione dei granili. Cercare a Napoli una Napoli infima, dopo aver visitato la caserma borbonica, non viene più in mente a nessuno. Qui i barometri non segnano più nessun grado, le bussole impazziscono, gli uomini che vi vengono incontro non possono farvi nessun male. Larve di una vita in cui esistettero il vento, il sole, di questi beni non servono ormai quasi ricordo. Strisciano, si arrampicano, vacillano, ecco il loro modo di muoversi. Parlano molto poco, non sono più napoletani né nessun'altra cosa. Una commissione di sacerdoti e studiosi americani, che oltrepassò arditamente giorni or sono la soglia di quella malinconica casa, tornò presto indietro, con discorsi e sguardi incoerenti. Avevo segnato su una scatoletta di fiammiferi, che dopo mi servì per altre ragioni, il nome della signora Antonia Lo Savio. Con nessun altro indirizzo, una mattina di questo novembre, varcai la soglia del grande ingresso che si apre sul lato destro del terzo e quarto granili. Quando la portinaia, seduta dietro una grande pentola nera in cui bollivano dei vestiti, dopo avermi esaminata freddamente mi disse che non sapeva chi fosse questa Lo Savio e andassi a domandare al primo piano, provai la tentazione di rimandare tutto a un altro giorno. Era una tentazione violenta come una nausea di fronte a un'operazione chirurgica. Dietro di me, sullo spiazzo che precede l'edificio, giocavano una decina di ragazzi, senza quasi parlare, lanciandosi delle pietre. Alcuni, vedendomi, avevano smesso di giocare e in silenzio si accostavano. Di fronte vedevo il corridoio del piano terra per una lunghezza, come accennai, di 300 metri, ma che in quell'attimo sembrò incalcolabile. Nel centro e verso la fine di questo condotto si muovevano senza alcuna precisione, come molecole in un raggio, delle ombre. Brillava qualche piccolo fuoco. Veniva da dietro una di quelle porte una ostinata, rauca nenia. Ventate di un odore acre, fatto soprattutto di latrina, giungevano continuamente fin sulla soglia, mescolate a quello più cupo dell'umidità. Pareva impossibile potersi inoltrare di 10 metri in quel tunnel senza svenire. Fatti pochi passi, vidi cadere a destra un po' di luce e scopersi una di quelle scale dai gradini larghissimi e non più alti di un dito che un tempo avevano permesso ai cavalli, installati al piano terra, di raggiungere con i loro carichi il primo piano. Forse faceva meno freddo di quanto avessi temuto, ma l'oscurità era quasi assoluta. Rischiai di inciampare e accesi un cerino, ma subito lo spensi. Ecco alcune piccolissime lampade nel cui interno tremano e si torcono continuamente dei fili rossastri. A questo barlume si delineava il corridoio del primo piano. Qualcuno, verso il fondo di questa strada, stava brustolendo del caffè, perché all'odore di urina e di umidità si mescolava ora anche quello più grato dei chicchi bruciati. Il fumo però faceva lacrimare gli occhi e metteva intorno alle lampade minuscole come spilli un alone più roseo. Passai davanti, non vedendoli che quando mi furono vicini, a un gruppo di ragazzi che giocavano a girotondo, tenendosi per le mani molto distante e rovesciando indietro le teste arruffate, con una voluttà più forte di quella di un gioco normale. Sfiorai ciocche di capelli duri, come incollati, braccia di carne fredda. Vidi finalmente la donna che abbrustoliva il caffè seduta sulla soglia di casa sua. Nell'interno c'era un disordine e un chiarore selvaggio, dato da un imprevedibile raggio di sole che si buttava dalla finestra, aperta sul dietro dell'edificio, attraverso vasi e cenci sulle materasse. C'era anche del sangue. La donna, nera e asciutta, seduta su una sedia completamente spagliata, girava di continuo, con una specie di orgoglio, il manico di legno del cilindro di ferro, dal cui portellino una nuvola di fumo saliva a isolarle la testa. In piedi vicino a lei, altre tre o quattro ragazze, in vesti nere, aperte sul petto bianco, seguivano con gli occhi seri e accesi la danza dei chicchi nel cilindro. Vedendomi, si scostarono e la donna smise di far saltare il cilindro sul fuoco, che per un momento cessò quasi di illuminare. Il nome di Antonia Lo Savio le lasciò silenziose. Mi accorsi dopo, durante le successive visite, che questo silenzio, piuttosto che indicare perplessità o indecisione, manifestava curiosità e un sentimento più sinistro, anche se debole. Il desiderio di coinvolgere per un attimo, nella oscurità in cui dominavano, lo straniero di cui era evidente l'abitudine alla luce. Per lo meno, molte di queste persone hanno giocato, durante le mie visite, a non rispondermi o a indirizzarmi verso luoghi da cui non avrei potuto facilmente risalire. Stavo per proseguire la mia strada, sforzandomi di apparire tranquilla, quando una delle ragazze, volgendosi verso una porta, disse lentamente, senza guardarmi: «Vedete il loco?» Una donnetta tutta gonfia, come un uccello moribondo, con i neri capelli spioventi sulla gobba e un viso color limone, dominato da un grande naso a punta che cadeva sul labbro leporino, stava pettinandosi davanti a un frammento di specchio e tra i denti stringeva qualche forcina. Sorrise vedendomi e disse: «Un minuto». La mia felicità nel vedere un sorriso simile in un luogo simile mi indusse a riflettere qualche attimo se fosse o no sconveniente rivolgerle il titolo di signora. La signora non era che un enorme pidocchio, ma quale grazia e bontà animavano gli occhi suoi piccolissimi. «Signora», dissi accostandomi a lei rapidamente, e le feci il nome del dottor De Luca, direttore dell'ambulatorio per i poveri dei Granili, che mi aveva mandata da lei perché mi accompagnasse un po' in giro. «Un minuto, abbiate compiacenza», ripeté continuando a sorridere e a pettinarsi, e mi accorsi allora che la sua voce, in fondo al rantolo del catarro, era dolce. Credo fosse questa sensazione, inconsciamente avvertita, a restituirmi un po' di coraggio. Mi addossai alla porta, aspettando che quella creatura finisse di acconciarsi, e intanto sbirciavo il gruppo delle caffettiere. Il fumo si era diradato, e in quell'improvviso grigiore esse apparivano ancora più pallide. Mormorarono qualche parola, in cui risuonò il nome della Lo Savio, con un riso silenzioso, colmo di disprezzo, e mi turbavano quelle che pensavo essere le ragioni di tanta ostilità. La Lo Savio, sulla soglia di casa sua, finiva di pettinarsi con un certo indugio di ragazza, come se fosse maggio, ed ella stesse pensando al suo amore, quando si accostò con le mani in tasca e i capelli dritti in testa, un'aria spavalda e tetra, un bambino. Procedé, con un'esitazione impercettibile, verso il centro della stanza e andò a sedersi sulle tavole del letto. Non vidi mai in questa grande casa un letto rifatto, solo materassi distesi o ammonticchiati, al più con una coperta gettata sopra. Una volta seduto e dondolando le gambe sottili, cominciò a canticchiare: E c'è stiva una volta una regina che teneva i capilla nell'anella con una voce afona. Si interruppe a un tratto per rivolgersi alla Lo Savio. Signò, tenissimo un bucorille pana. E da questo capì che non era suo parente. Mentre la Lo Savio, con in bocca l'ultima forcina, gli rispondeva qualcosa, mi accostai al bambino e gli domandai come si chiamasse. Rispose «Luigino». Gli feci altre domande e non rispose più nulla. Gli era apparso su tutta la faccia un sorriso ambiguo, sprezzante, che contrastava bizzarremente con l'espressione assente e morta degli occhi. Sentendomi imbarazzata, come se il suo sorriso, misteriosamente maturo, non già più di bambino, ma di uomo, e di uomo avvezzo a trattare solo con prostitute, contenesse un giudizio, una valutazione atroce della mia stessa persona, mi allontanai di qualche passo. Ed ecco la Lo Savio accostarsi col pane, che il ragazzo cominciò a mangiare. Questo povero figlio, diceva adesso la Lo Savio, non tiene padre né madre. Sta qui dal 46 con una mia cugina, la porta accanto. Per giunta è pure cecato. Il ragazzo rimase un attimo in silenzio, e in quell'attimo le mani che stringevano il pane gli scivolarono fino alle ginocchia. In qualche modo mi osservava. Non può corrille cevec, muove che n'ombra che a cala capa. Vanaiata, signò. Risposi di sì dopo qualche momento e mi avviai con la Lo Savio. Va accompagnasse, ma aspetta un amico, proseguì con una nuova intonazione dove la spavalderia della menzogna, necessaria a salvarlo, moriva in una specie di stupefatta pietà, di intenerito calore. Riadagiò la testa, che per un momento aveva sollevata sul pagliericcio, e riprese a cantare. E una barca arrivai alla marina. Cantava con un filo di voce, una fissità, che dovevano avere lo scopo ogni mattina di persuaderlo nuovamente al sonno. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.